Jackson si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono. Lei la figlia di un'americana trapiantata a Roma e lui un figlio di puttana ormai disoccupata. Enex, Enex si tranquillizzavano con le loro lingue al gusto di medicina amara e chiodi di garofano. Lei per strada, lui rubava i libri della biblioteca e poi li leggeva seduto sopra un cofano. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore. E su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto di essere normale. Ma la normalità a me mi sembra una follia, magari l'invenzione di chi ha poca fantasia. E alla fine, se ci pensi, non è strano, le persone normali sono sempre quelle che non conosciamo. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore. E su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Enex, Anax, quando litigavano, avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York. Uccidersi al telefono. Lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia e poi sovrapponevano il battito cardiaco.